È tempo di bonus. Quando l'economia andava bene, era una scelta assai diffusa per le aziende premiare i lavoratori per la loro produttività e i risultati ottenuti. Ma anche ora, nonostante la crisi, la prassi continua. Bene. Molto bene. Il problema è che frequentemente il premio viene dato in contanti, fuori busta. In parole povere, i bonus vengono dati in nero, senza pagare le tasse. E quel nero alimenta l'evasione fiscale a tutto campo. Certo, anche la legge italiana, come spesso accade, ci mette lo zampino. Infatti, il nero dei bonus aziendali è alimentato dal fatto che il provvedimento di detassazione degli straordinari, che ha abbassato l'aliquota al 10% e si applica anche ai premi aziendali, contiene una limitazione. La detassazione viene applicata soltanto se il reddito imponibile di quel dipendente l'anno precedente è stato inferiore a 35.000 euro lordi. Quindi tutti quelli sopra questa cifra sono penalizzati, a meno che non scatti la busta in nero. Ed è quello che accade in barba alle leggi e ai lavoratori che dichiarano fino all'ultimo centesimo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.